Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che giornata. Che dire. Mi sentite? Forza Ferrari! In my mind I'm running around a cold and empty space. Sotto Icardi, va con Icardi, col sinistro! Vantaggio Inter, eccolo qua! Primo gol in campionato per il bomber della scorsa Serie A. Lo sbaglia, Maurizio Icardi. Jorginho, tutto lineare, tutto semplice, tutto fluido. Allan trova Gabbiadini. 5-0 Napoli, 5-0 Napoli, e la gioia anche per Gabbiadini. Però sono contento anche per l'Italia, per questa squadra che merita un posto nel gruppo mondiale. Sono contento per il capitano che comunque ancora una volta ha scelto me e gli ho dato una conferma molto importante. Buongiorno signori, 800 24 00 24. Li vogliamo numerosi, soprattutto Giorgio De Luca, il nostro autore. Raccomanda di chiamare il numero verde, perché vogliamo proprio parlare con voi di questa domenica, che è stata ancora tutt'altro che banale e molto colorata. Molto colorata, il rosso della Ferrari, ma anche quello della Spagna, campione d'Europa di basket, con venature azzurre, naturalmente forti venature azzurre, perché è allenata da Sergio Scariolo, italiano, come ben sapete, al terzo titolo europeo. Poi c'è l'azzurro vivo del tennis, abbiamo sentito le parole di Fognini, ma anche l'azzurro vivissimo della pallavolo, che ai mondiali giapponesi nelle ultime ore ha battuto la Russia. Tennis e pallavolo, entrambe che battono la Russia. L'Italia del tennis resta in Serie A, mentre l'Italia della pallavolo è vicinissima alla qualificazione diretta a Rio. Dobbiamo chiudere con Argentina e Polonia, e poi, se tutto va bene, siamo già là, a Rio de Janeiro, alle Olimpiadi. C'è invece l'azzurro sbiadito, smorto del rugby, già con un piede fuori dai mondiali dopo essere stato asfaltato, dopo che l'Italia è stata rullata dalla Francia sabato. E poi ovviamente tutti i temi del calcio, l'azzurro e nero dell'Inter, che sembra una cosa sempre più seria, l'azzurro vivissimo del Napoli, che è stato raccontato da Pierluigi Pardo. Avrete riconosciuto la descrizione del gol di Gabbiadini. Ciao Pier, come va? Benissimo, tu? Bene, mangiato all'aperto, sai, col venticello napoletano di settembre, mi ho perso un po' di voce, però insomma, tutto a posto, tutto sotto controllo. Beh, Napoli, pronti per tiki-taka? No, pronti per tiki-taka, pronti per vivere un'altra settimana intensissima, perché poi già domani sera siamo a Udine, per Udinese-Milan, insomma, mi sembra... Il debutto di Balotelli dal primo minuto. A quanto pare. Sì, sembrerebbe. Mm-hmm. Mi sembra tutti i segnali vanno in quella direzione lì. È un campionato. Guarda, io allora partiamo dalla cosa che ho più nella testa, poi parliamo anche dell'Inter. Però il Napoli di ieri sera apre. Parliamo domande. Della Roma anche, sì, perché la Roma che si incarta, secondo me, è la terza notizia della giornata. Sì. Paradossalmente, insomma, diciamo delle cinque squadre delle quali si parla di più storicamente, Juve e Milan sono quelle un pochino meno calde oggi, perché la Juve ha vinto, e questa chiaramente è una notizia, non ha però ancora convinto del tutto, il Milan ha vinto ma non ha ancora convinto del tutto, quindi aspettiamo ulteriori prove. Invece le altre tre ci portano notizie clamorose, perché l'Inter con la quarta vittoria consecutiva dà una forza e una dimostrazione di solidità veramente molto significativa, perché il Napoli, visto ieri sera, io te lo dico proprio a costo di essere blobbato tutta la vita, non ce la faccio, che poi mi dai, no, ma il Napoli visto ieri sera ti fa pensare a cose grandi, ti fa pensare allo scudetto. Il Napoli visto ieri sera, ve lo dico, ecco, l'ho detta, l'avete blobbata, il Napoli 0-24, vai così, registrate, il Napoli visto contro la Lazio fa pensare a tutto. Vabbè. Anche allo scudetto. No, è chiaro che la distanza è già tanta. Ma è questo il Napoli? Cioè, perché non lo so, è difficile capire, è difficile capire. La difesa del Napoli, chiaramente lo sappiamo, che è una difesa di metà classifica, mentre l'attacco per me è il più forte del campionato. Mm-hmm. E, però, insomma, io ti dico la verità, un pochino mi ha sconvolto, diciamo, la partita di ieri, in positivo ovviamente per il sì. Napoli, e apre degli scenari molto interessanti. E poi la Roma mi sembra che si sia incartata, adesso oggi a Roma chiaramente si parla soprattutto di Garcia e del suo turnover. E hanno ragione, ma si può cambiare sei giocatori, si può non far giocare Dzeko in casa con il Sassuolo, ma siamo matti. Soprattutto all'inizio della stagione, soprattutto quando hai l'unica squadra rodata adesso. Io conosco abbastanza l'ambiente di Roma. A Roma di passare il turno in Champions League, chiaramente se la Roma lo passa sono tutti contenti ovviamente, sì. Ma l'obiettivo della Roma quest'anno è vincere il campionato. Ecco. Ma certamente. Perché la Roma arriva sempre seconda, ha una storia di piazzamenti clamorosa, e quello che manca ovviamente come soddisfazione, come aspirazione al popolo giallorosso, è la vittoria del campionato, che secondo me non è facile per niente, però non è un obiettivo così irraggiungibile, mentre la vittoria della Champions è un miraggio che no. Ma guarda, secondo me la Roma deve andare in Champions per divertirsi e divertire. Esageriamo, ma per divertirsi e divertire. In campionato deve giocare tutte le partite come se fossero la finale di Champions, compresa quella con il Sassuolo. Sarà una banalità, però deve per forza essere così. Non puoi cambiare sei giocatori, dai. Sono d'accordissimo. Allora facciamo così. Ci fermiamo un attimo, per il traffico. 800 24 0024 è il numero verde, eh? Poi torniamo a parlare di tutti questi temi a partire dalla capolista. Le vuoi dire che non mi staccano il microfono a sti signori che mi fanno parlare questi, lo puoi dire? Tutti convocati. Tutti convocati. È importante essere passati su un campo oggi solitamente difficile, oggi ancora di più perché il Chievo è veramente in forma e difende benissimo, era difficilissimo. Tutto il primo tempo abbiamo giocato praticamente altissimi e non riusciamo a trovare spazi perché il Chievo difende benissimo, ha tutti gli uomini dietro la linea della palla, non è facile giocare, è una partita difficilissima, a parte il caldo che c'era oggi, che era, sembrava una giornata d'agosto. E questo, avete riconosciuto, era l'allenatore della capolista, Roberto Mancini. E io saluto e ringrazio, insieme a Pierluigi Pardo, Corrado Enrico. Buongiorno, mister. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Andiamo avanti. Vai. Meglio di niente, no? Sì. Chi lo vince il campionato? Inter. Ma non son certo, però Roma. Se Garcia la smette di andare giocare a l'area, di giocare l'area, a caccia di farfalle va. Sì. Si inventa le formazioni come fossero appunto giochi infantili, voglio dire, il fatto della continuità, della concentrazione, degli schemi ripetuti che si trovano, come l'ha trovati col Barcellona, bene. Ha buttato all'aria, ha cambiato sei uomini, beato lui. Certo. Adesso però si sprecano i paragoni relativi all'Inter. C'è chi dice l'Inter del Trap è come l'Inter del Trap, quella dei tedeschi, è come il Milan di Capello, quello del. È una squadra molto più sofisticata di quelle. Quelle erano più ruspanti, piene di campioni anche quelle, ma giocavano un calcio più tradizionale. Questa gioca un calcio, a mio modo di vedere, molto attuale e pieno di varianti. Se ora mi pare che sia riuscito anche a far muovere Icardi da quel trono che su cui giaceva in passato in mezzo all'area, quindi ora si muove, fa largo, quindi apre la possibilità di entrata anche altri centrocampisti che l'Inter ne ha capaci di far gol. Quindi è una squadra molto più sofisticata, che è figlia della sperimentazione di Mancini di quei sei mesi dell'anno scorso, dove ne ha fatte quante baraba per sperimentare quello che poi voleva fare, cioè una squadra forte quest'anno. Cioè, farsi comprare i giocatori, Pierluigi. Ce l'ha fatta non solo, non solo quello, no, no, ha eliminato anche giocatori forti. Prima li ha provati in diversi ruoli. Quando ha capito che non si adattavano a quello che voleva, parlo di Kovacic e anche Hernández. E quindi ha girato un po' le carte, ma l'ha girata in maniera sapiente, quindi confermando la sua capacità manageriale oltre che uomo di campo. Pierluigi, cosa ne pensi? No, ma condividi la lettura del mister? Sì, appunto, come diciamo ieri, credo che le ultime due partite rappresentino un significativo salto di qualità per l'Inter, perché nelle prime due gare ha vinto senza brillare, faticando contro Atalanta e Carpi. Poi mi pare che invece nelle ultime due partite ci sia stato proprio un significativo salto di qualità, ed è chiaro che l'Inter adesso è fra le favorite. È fra le favorite perché è una squadra che ha una sua normalità, ha una sua semplicità, sì. Anche se giustamente il mister dice che è più sofisticata di quelle squadre ruspanti di un tempo, però alla fine è una squadra che ha un ottimo portiere, ha un attaccante che segna, ha un trequartista di livello, un centrocampo molto muscolare, ha una difesa che tiene e quindi sta sulla carta sembra avere molto per poter arrivare in fondo. In difesa, come dicevamo ieri, manca ancora quello che dovrebbe essere il faro, l'uomo principale, cioè Miranda, che è ancora ai box. Io divento matto, Corrado Enrico, con questa storia del turnover, ne parlavamo prima. Ma è possibile che a settembre si debba fare per forza il turnover, soprattutto quando ci sono delle squadre in costruzione? Io ho sempre avuto il dubbio che fosse un atteggiamento politico, cioè di accontentare tutti quanti per fare gruppo, come si dice. Quindi quando gli allenatori hanno scoperto la psicologia si vedono anche di quelle brutture lì, cioè cambio di mezza squadra alla volta. Il mio dubbio è che lo facciano, ripeto, per accontentare un po' tutti, rosa, siccome le rose però sono molto più numerose di una volta, quindi molti giocatori sarebbe o sarà difficile tenerli a guinzaglio. Allora quello è un po' un contentino che si dà a quelli che sono trascurati, perché non credo che Garcia possa lasciare fuori il suo centravanti che gli ha cambiato è chiaro, ma come se, poi lo paghi in punti, perché ieri sono due punti persi, sì, in punti. E non so, ma qualcuno che lo faccia riflettere, a Roma ci sarà lui qui, perché non so, mi pare che stia percorrendo la strada di Benitez, cioè credono di venire in Italia a inventare calcio con soluzioni, come dire, votate all'inconcludenza, e non capiscono che giocano in un campionato dove non puoi regalare nulla a nessuno, perché anche quelli più meno appariscenti, più poveri degli allenatori che hanno squadre meno forti, però hanno talento da vendere e sono pronti a sfruttare i vantaggi tattici che gli puoi dare. Sì, intanto Benitez è l'allenatore, l'unico allenatore imbattuto con la difesa imbattuta in Europa, perché zero gol in cinque partite, è l'unico che non ne ha ancora presi. Se va a allenare Marte ancora di più sarebbe avvantaggiato. Voglio dire, non parliamo di Benitez, che a Napoli la critica l'ha difeso pensando al suo passato certamente onorevole, ma meritava di essere licenziato. Se c'erano dei dirigenti seri, ne ha fatto tante baraba laggiù, ha speso 100 milioni e la squadra è arrivata molto dietro a quello che faceva il modesto Mazzarri, modesto tra virgolette. Sì, Pierluigi, il mister Enrico l'ha toccata pianissimo su Benitez. No, beh, ma insomma dai, su Benitez è abbastanza evidente che nel secondo anno, nel primo secondo me non ha fatto male, nel secondo anno abbia veramente disatteso le aspettative. Ma mister, in Sarri ci crede lei? Perché mi molto, sembra, molto. Ecco, mi è sembrato molto, perché non perché ha vinto ieri, lo sostengo da sempre, anche quando era Empoli che giocava un calcio magnifico, sontuoso. I temi più nascosti e più difficili per noi allenatori da sviluppare lui c'era riuscito, e stranamente vedo che anche il Napoli ora ieri, io l'ho osservato con attenzione e anche con ammirazione, quel possesso di palla magnifico, giocando tutto a volo sempre, continuamente stordendo l'avversario, mettendolo proprio alle corde, voglio dire. Poi ha fatto 5 gol, ne poteva fare 10 il Napoli, voglio dire, sì, comincia a vedere, grazie al cielo, perché io sono un suo estimatore, perché spero sempre che gli allenatori italiani di talento, come Sarri è, abbiano i giusti riconoscimenti anche nelle grandi squadre, invece qualche volta andiamo dietro a stranieri che vendono fumo più che essere bravi professionalmente. Mister, grazie. Grazie davvero, mister Corrado Enrico. A presto, saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Che musica è? Sì. Ah, cambio base. Fantastico. Non ho capito. C'è chi scrive: benedetto sia il turnover, speriamo che lo faccia Sarri mercoledì sera e che Garcia sabato. Garcia non lo so, Sarri non mi sembra stia facendo turnover per niente. Ieri quello che ha cambiato è stato Mertens, che ha giocato benissimo con il Bruges, per Gabbiadini, per Lorenzo Insigne, che secondo me è stato, Pier, forse il miglior giocatore di questa quarta giornata di campionato. Sì, ha fatto delle cose pazzesche. Sì. Ha fatto una partita incredibile e poi anche Higuain va sottolineato, perché insomma doveva essere, secondo quanto aveva raccontato Sarri, penalizzato dal 4-3-3 in linea, e invece mi sembra che abbia fatto benissimo, veramente benissimo. Poi lui, quando vede la Lazio, qualcosa di particolare, è arrivato a 11 gol, 10 in campionato in 5 partite, veramente una media pazzesca, anche se giustamente ci si ricorda soprattutto quel calcio di rigore sbagliato. Però no, è stata una grande prestazione, ma sta crescendo Allan, sta crescendo Jorginho, sta crescendo Isai. Sì, no, non è che ne faccia tanto di turnover Sarri, comunque, ed ha ragione, perché deve costruire, deve cucire la squadra. Ma comunque io trovo un controsenso che si faccia il turnover ora, quando ci sono delle squadre che sono chiaramente in costruzione. Il Napoli non lo fa, la Juventus lo fa con giudizio, mi pare, pur avendo giocato in Champions League in settimana. Non lo fa l'Inter, giustamente, perché Mancini deve costruire questa squadra e ha bisogno di partite. Antonio da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, salve. Io volevo dire qualcosa sul Napoli. Cioè, ieri effettivamente è una grande partita, però io sono simpatizzante Milan, Cioè, rimango sbalordito la Lazio, cioè, sembrava 11 contro 7, secondo me, non lo so cosa sia successo. Dispiace anche per Pioli, perché è una grandissima persona, pensando che 20 giorni fa ha fatto il preliminare per la Champions League. L'ha perso. C'erano dei varchi proprio che sembravano che giocassero da soli. Pessima Lazio in ritiro, contestazione a Formello, scritte sul muro, 11 indegni più altre cosucce di questo tipo. A Lazio ha sbagliato partita ed è già la seconda che sbaglia, perché è quella Verona con il Chievo e questa, ma in maniera clamorosa, Pierluigi. Sì, l'andamento esterno per ora è drammatico, un solo pareggio contro il Dnipro e 3 sconfitte pesantissime, con 12 gol subiti e nessuno segnato fra Leverkusen, Chievo e Napoli. Infatti questo è il negativo, no? Il rovescio della medaglia, a proposito del discorso che facciamo sul Napoli. Bisogna capire quanto della meravigliosa partita del Napoli ieri sera sia in qualche modo legato alla pessima prestazione, alla fragilità della Lazio, che ieri si è veramente disgregata, dove finiscono i meriti e dove cominciano i demeriti. Però insomma, io credo che comunque sia, con tutte le assenze, con la brutta prestazione, però vincere così sia una grande dimostrazione di forza. Certamente. Gianfranco Verona, poi sentiamo la borsa. Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono un tifoso del Chievo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Pardo, buongiorno. Ma voi esaltate sempre l'Inter, il Chievo, che ha giocato con la Juve e ha giocato con l'Inter, comunque più squadra la Juve, cioè, nonostante che alla Juventus Stadio già abbiano rubato la partita, questo ci può stare, però voglio dire, è più squadra la Juve ancora. Io non credo nell'Inter, l'ho vista, è una squadra, in realtà sì, ha cambiato là, però parecchi episodi poi nel secondo tempo hanno purtroppo da... Sì, allora che sia più squadra la Juventus al momento è indiscutibile, però penso che l'Inter sia quantomeno un progetto in fase avanzata, ecco, e vince, è proprio a maggior ragione vincere sul campo di questo Chievo, che non dimentichiamo era capolista, è stata una piccola grande impresa, no? mi sbaglio? No, assolutamente, io penso che sia così. Voglio sottolineare i meriti del Chievo, cioè, penso non è che sia così banale, ma che scherzi, le ultime due vittorie con Milan e Chievo sono due vittorie pesantissime. Pesantissime. Sul discorso di chi sia più squadra non lo so, io penso che sicuramente la Juve abbia ancora tanto e l'ha dimostrato in queste ultime due partite e si sta rimettendo a posto. Però che penso anche che non sarà il monologo degli anni scorsi. E poi sai, la distanza in classifica non è un dettaglio, perché comunque ci sono 8 punti. Ci sono 8 punti, la Juve resta al Frosinone in casa e poi ha il Napoli fuori casa. Cioè ci si potrebbe tranquillamente trovare a più 10 fra 2 giornate, ammesso che l'Inter ovviamente vinca contro Verona e Fiorentina. E 10 punti sono un margine psicologicamente, anche al di là dell'aspetto strettamente numerico, è un margine pesante, quindi insomma non è che non sia successo niente in questi inizi di stagione, sono successe delle cose le cui conseguenze ce le porteremo avanti fino alla 38esima giornata e sono conseguenze favorevoli all'Inter e brutte per la Juve. In assoluto, con valore assoluto, ci sta secondo me il ragionamento dell'ascoltatore. Io sono convinto che chiaramente non è finita la Juve, che ha ancora una grandissima squadra, che ha una forza che ha dimostrato nelle ultime due partite, secondo me importante. No, sai, però, cosa? Secondo me non sta bene fisicamente la Juventus, al di là dei mille infortuni muscolari. Infortunini, no? Non è stata brillante per nulla, anche ieri a Genova ha vinto e questo forse può essere un buon segno, dato il fatto che anche la Juve ha lavoro in corso, la Juve non sta benissimo, ha tanti assenti, ha tanti problemi muscolari. Fermiamoci per la borsa, va, 800-24-0024, torniamo. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Convocati. Ti dà fastidio che si parli di te soprattutto come un giocatore di carisma, di personalità, un giocatore cattivo? Cioè, non ti senti un po' sminuito in questo? No, per niente, io sono così. Questa è la mia caratteristica, cattivo, quella è la mia forza. Io sono la classica persona che ama solo quando soffre. Quest'Inter ha la faccia di Felipe Melo? No, Felipe Melo c'ha la faccia dell'Inter. E cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che noi siamo del Guerriero. Abbiamo fatto fino adesso una grande famiglia che con tantissime umiltà e con Dio capacitando possiamo andare più alto possibile. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male. Melo picchia troppo sul campo, cosa risponde Felipe Melo? Ma guarda, io veramente no, ti dico essere sincero che meno male che l'arbitro ha visto, io non ho fatto niente apposta, poi con la palla alta lì sono venuto dietro di me, quindi non l'ho visto neanche. Solo mi farai felice se sarai crudele con me, e se sono prigioniero non mi sento lì. Guarda che se non vuoi contatto sicuramente devi giocare al tennis, perché il football col calcio è contatto, poi non ho fatto nessuna entrata rischiosa, niente, si gioca a calcio con fair play. Questo con fair play lo dice Felipe Melo, a lezione dal signor Felipe Melo. Ciccio Graziani, buongiorno. Ma io non vado a lezione dal Felipe Melo, perché Felipe Melo con questa nomea che si sta facendo, che lui è un picchiatore, che non lui so è quante duro, ne finisce, ma ogni domenica è a rischio squalifica, sì. a rischio espulsione, e se va bene a Mancini va bene a tutti, non c'è problema, ma lui dovrebbe parlare di meno e dare meno adito a questa Bravissimo. Nomea che si sta cercando di farsi, perché poi il giocatore vero che sa picchiare è quello che sta zitto, è quello che sta zitto. Ah, certo. Sta zitto, non parla, anzi picchia e chiede scusa, sì, ma anche il leader vero è quello che non usa tutte queste parole, Pierluigi. Esatto, anche quella delle battute, però... chi non vuole il contatto vada a giocare a tennis, gioca, l'altro diceva giochi con le bambole, sono tutte frasi fatte. La verità è che Felipe Melo è un ottimo calciatore, però ogni domenica col suo modo di fare, col suo modo di interpretare il ruolo, rischia di essere buttato fuori tutte le domeniche. Sì, e poi c'è però una cosa, secondo me, che se vuoi è una sorta di congruenza anche mediatica che c'è in questo momento. Cioè, in questo momento l'Inter sta rispolverando un profilo, ieri dicevo, da brutti, sporchi e cattivi, ma ripeto, in senso positivo, cioè di una squadra piena di personalità, di si può dire palle, ecco, insomma, di attributi, ecco, che non c'erano nel passato. E quindi, secondo me, Felipe Melo diventa inevitabilmente uno dei volti di questa rivoluzione. E per questo se ne parla. Cioè, secondo me c'è questo elemento qui. E in questo momento è funzionale. Sì. Pierluigi, ma se ci vogliamo giocare o scherzare, ci giochiamo. Che problema c'è? Non è mica. Questo è il problema. Il problema è un problema suo, perché si pone all'attenzione anche dei colleghi in un modo sbagliato, perché non è che lui ha inventato l'acqua calda, voglio dire, è un giocatore di carattere, di personalità, di grinta, però devi saperla usare con la testa e soprattutto devi stare un pochino più zitto con la bocca, perché ogni volta vedo che con la bocca offende. E allora tra colleghi bisogna avere anche quel minimo di rispetto, quella stima reciproca che ce le diamo, e poi chi l'ha presa sta zitto, chi l'ha data è uguale, insomma. Un problema di comunicazione, no? Guarda. Esatto, non c'è bisogno di un questa problema nomea. Di comunicazione. Di lui meno se ne parla al di fuori, meglio è, perché no, questo lui senz'altro, ingrandisce questo suo modo di giocare e lo esaspera un po' anche con le parole. Rischia che poi trova qualcuno che magari contraccambia, ma poi c'è il rischio che lui tutte le domeniche può mettere in difficoltà la squadra, perché è a rischio squalifica. Sono d'accordo, così come sono d'accordo con Paro quando dice che comunque è la faccia dell'Inter, è un po' l'emblema di questa Inter. In questo momento è uno stereotipo di moda, per sottolineare in positivo la crescita di una squadra che fino a poche settimane fa sembrava molliccia e inespressa, e oggi ha una sua fisionomia. Non è ancora bellissima, ma intanto è vincente, è molto solida e quindi ci sta. Non mi sorprende, francamente, che se ne parli L'Inter in questo momento è più pericolosa in chiave scudetto rispetto a quello che pensavamo qualche settimana fa, perché non sta giocando ancora da squadra, vince con le giocate di singoli, si intravede che è una squadra che può avere carattere e personalità, ma quando comincerà a giocare anche da squadra, perché siccome Mancini è bravo a fare allenatore, molto probabilmente questa è una squadra che migliorerà anche dal punto di vista del gioco, allora a quel punto sarà ancora più difficile. Intanto non prendi gol e vinci le partite di misura e fanno sempre 3 punti. Senti Ciccio, il gol invece numero 300 di Francesco Totti, un gollonzo in piena regola, perché è stata una roba abbastanza comica, tra l'altro in fuorigioco, esatto. Non serve alla Roma per vincere la partita? E questo è il problema, però mette la cornice, dai, giornata storica, a quello che secondo me è il più forte giocatore italiano degli ultimi 20 anni, insieme a Pirlo, Baresi, Maldini. Del Piero, io ci metterei anche Del Piero, che a me Del Piero ha fatto impazzire, anche se giocare in una squadra che non la tifo, ma Del Piero è un giocatore che ha fatto la storia anche lui del nostro calcio, insieme a quelli che hai citato tu, ci metterei dentro anche lui. Ma vedi, 300 gol di Francesco sono passati in secondo ordine, perché ieri nessuno era contento del risultato del 2-2, sofferto, ma molto probabilmente oggi è un po' sulla graticola lo stesso Garcia per le scelte che ha fatto, ma molto probabilmente se non avesse vinto facendo cose diverse sarebbe stato sulla graticola lo stesso. L'unica cosa, l'unica critica costruttiva o l'unico appunto che potremmo fare è che, siccome la Roma è un giocatore che è insostituibile per me per caratteristiche, che è Dzeko. Io Dzeko, se non è la febbre a 40 o se lui non mi dice guarda non me la sento, io lo metto sempre in campo, perché è l'unico giocatore che è fondamentale per il gioco di quella squadra, perché se tu hai Iaco Falche dalle fasce, hai Gervinho o Salah dall'altra, o chi per loro che va sugli esterni come può essere Maicon o Digné, se però non c'hai Dzeko in mezzo all'area che fa da punto di riferimento, vanifichi un po' quel tipo di gioco, perché se c'è Francesco Totti in mezzo è inutile fargli grosse, che non gli serve, no, questo, niente. Questo è ovvio, è altrettanto evidente che ieri la Roma, con un Sassuolo che è meraviglioso per organizzazione, è forse la squadra che gioca meglio in Italia in questo momento, in questo particolare momento dal punto di vista strettamente calcistico, no? No, come... ma la verità è anche un'altra, no? Almeno pensiamo che possa essere questa. È che le squadre tipo Sassuolo, Carpi, Empoli, Atalanta e altre squadre, ma anche lo stesso, per certi versi, anche lo stesso Frosinone, abbiamo visto la partita per esempio Roma, Frosinone-Roma, che gli danno quel calcio di rigore che ci poteva stare sul fallo di mano di Digne, molto probabilmente raccontiamo un'altra partita, ma è l'aspetto fisico che in questo momento diventa quasi determinante, perché noi vediamo che queste squadre corrono talmente tanto, avendo fatto una preparazione attenta, adeguata, come nella logica delle cose, annullano il gap tecnico poi dell'altra squadra, perché il ritmo è molto elevato. Io ho visto ieri il Sassuolo giocava a una velocità, a una rapidità che la Roma non riusciva, anche magari per caratteristiche di alcuni calciatori, ma non aver fatto la preparazione per tanti club importanti, avendo viaggiato molto, cambiato climi, lavorato in un modo approssimativo, adesso un pochino lo paghi. Poi da 6-7 domeniche molto probabilmente racconteremo un'altra storia, un'altra classifica, però in questo momento queste squadre qui stanno benissimo. Io ho visto anche l'Empoli, ragazzi, l'Empoli va a 200 all'ora. Sì, ma poi corrono tanto e corrono bene, dicevamo prima. Ciccio, esatto. grazie un Ciccio. Abbraccio a tutti voi. Ciao Ciccio Graziani, ci fermiamo per il traffico, poi abbiamo diversi ascoltatori cui rispondere, cui dare la parola. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Tutti convocati. Luigi Pardo, torniamo dagli ascoltatori. Pasquale da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, io sento questa trasmissione ma sento parlare solo dell'Inter e della Roma, sembra Radio Inter a volte. Di cosa parliamo? Sembra io Inter, 4 vittorie consecutive. Abbiamo parlato del Napoli, abbiamo parlato di Totti. La Juventus ha vinto ieri, cioè non è che non ha vinto, ha vinto meritatamente. L'Inter con Carpi ha vinto con un rigore non dato al Carpi e un rigore dubbio, anzi non c'era per l'Inter. Ieri ha vinto una partita, insomma, in qualche modo. Non mi sembra questa grande Inter che voi dite. No, noi parliamo di risultati, di punti, di classifica, di quello che sta nascendo, perché parlate solo dell'Inter. Mi dica di cosa vuole parlare. E basta. E dica di cosa vuole parlare. Non mi dica che non parliamo della Juventus, Ma qualche volta sembra. Come qualche volta? Vabbè, dai. Come qualche volta? Io sento la trasmissione. Ho capito, ma si vede. Va bene, ma oggi abbiamo parlato parecchio dell'Inter, è vero. L'Inter e del Napoli soprattutto e di Totti, c'era Orrico, poi c'era Graziani. Vabbè, anche di Totti. Potremmo chiedere a Graziani del Torino, ci siamo dimenticati. Volevo chiedere del Torino. Totti è il più grande giocatore italiano negli ultimi 20 anni. Io credo sia stato Del Piero, visto che ha vinto molto di più. Questione di gusti. 300 gol sono qualcosa di mostruoso. Totti ha deciso di sposare a vita la Roma e la storia la conosciamo. Io rimango convinto del fatto che Totti con Pirlo e con una grandissima squadra di difensori, di cui Maldini e Baresi sono stati forse più grandi, sono i miei giocatori preferiti degli ultimi 20 anni. Ognuno poi ha i suoi gusti e sono assolutamente... Certo. Legittimi. Io ci metto anche Mancino, dal punto di vista estetico amavo Mancini alla follia, anche nelle sue fragilità, nelle sue polemiche ogni tanto. Ricordo una volta che si è seduto per terra in polemica con l'arbitro. Mancini faceva delle cose da calciatore incredibili. Totti è un giocatore enorme, è ovvio che il fatto che abbia deciso di fare una scelta di vita di questo tipo gli ha tolto qualcosa dal punto di vista del palmarès, dei trionfi, e gli ha dato qualcos'altro dal punto di vista dell'essere leggenda nella sua città e della squadra che ama fin da quando è bambino. Insomma, giocatore è immenso, i paragoni sono molto complessi. Sì, sono molto complessi perché entrano i gusti personali, esatto, entra il tifo, esatto, entrano tutte queste componenti, no? No, ma al di là del tifo entra proprio secondo me il fatto che non è facile metterli in fila, non è facile metterli in fila, insomma, però è solo un gioco, poi Baggio, sì, e poi Roberto Baggio, insomma, ti ripeto, questione anche di no, a me quello che un po' dispiace in questo momento e che si lega a quello che abbiamo visto ieri è che la leggenda di Totti, ma questo era un rischio nel continuare la carriera fino alla fine, ed è stata in qualche modo anche una ricchezza per Totti, perché sicuramente la sua longevità e la sua rinascita di questi ultimi anni, perché negli ultimi anni Totti è tornato a fare delle stagioni molto molto importanti, ha reso la sua carriera ancora più leggendaria, però sicuramente adesso vedi che arriva questo 300° gol in un momento in cui paradossalmente si discute di turnover e oggi a Roma tutti avrebbero voluto far giocare Dzeko, quindi c'è il rischio che qualcosina, una minima parte di questa gloria e di questa bellezza venga storcata dalla contingenza di questo momento. No, non è stato un 300° gol perfetto, no? Non è stato un bel 300° gol, è arrivato in concomitanza con un pareggio, era in fuori gioco, è stato un gol abbastanza banale, un po' fantozziano come hai detto tu prima. Ecco, insomma, Totti per la storia che ha meriterebbe evidentemente una cornice diversa, un destino però diverso, cioè, una cornice diversa. No, ma io sono d'accordo, non cambia poi niente, no, okay, non cambia niente, però la grandezza dei campioni sta anche nel capire esattamente qual è il momento in cui ritirarsi. Sì, però è vero pure che è difficile, che Francesco fino a un annetto è difficile fa, fino a un anno fa, ma anche fino all'anno scorso, un anno fa era ottobre, era match 2 di Champions League, ti ricordi Manchester City Roma? No. Il gol che ha fatto in casa del City e che partita ha fatto. Insomma, stiamo parlando di un giocatore che è quello che ha fatto nel derby con la Lazio. Esatto, il primo momento in cui si comincia a pensare a Totti come a una riserva della Roma è questo. Sì, perché dicono le gerarchie, perché è arrivato un giocatore come Dzeko e l'anno scorso non c'era, ed è arrivato nel suo ruolo, che adesso ovviamente è quello della prima punta, anche se con caratteristiche diverse. Quindi questo è il primo momento nel quale veramente si può, anche dal punto di vista ambientale, tenere in panchina Totti senza compiere un delitto, dal punto di vista sia del pubblico, dell'immagine eccetera, ma anche dal punto di vista tecnico, perché comunque Totti, perché la squadra sta assumendo un'altra questa carriera qui se l'è guadagnata, non c'è dubbio, sta assumendo un'altra fisionomia. Voglio farvi sentire e farti sentire, Pierluigi, che magari le userai anche a Tiki-Taka stasera, non lo so, quelle che secondo me noi sono state le tre più interessanti, curiose, carine dichiarazioni della domenica, a partire da Sarri, che ormai si è specializzato nel trovare gli alibi agli avversari sconfitti. Per il Bruges faceva caldo e per la Lazio che faceva? È stato tutto più semplice, anche perché loro sono reduci da una partita di giovedì sera, ma fatta lontano dall'Italia, quindi sono sempre situazioni difficili, trovarsi sotto 2-0 in una squadra che sta facendo bene come noi. Quindi alibi per la Lazio, poi c'è Allegri e le biciclette di Bornesi. Mi diverto a sentir tutti e lascio chiacchiere a tutti, poi dopo, tanto alla fine le contano sono i risultati. Nel calcio tante chiacchiere, la chiacchiere porta via il vento, biciclette di Livornesi, l'unica cosa che conta sono i risultati. Questa delle biciclette dei Livornesi la lasciamo così da parte. E infine Mihajlovic sulla Rabona di Bacca. Tu? Su Bacca la Rabona. Esatto. Oh, ma Bacca, diciamo che è stato fortunato facendo gol della vittoria. Hai capito? Se no entro e lo appendo al muro, avrebbe anche detto. Fai sentire stasera, no? Sì, assolutamente. Che parli? Parliamo di tutte le cose di cui abbiamo parlato adesso, esatto. È una settimana densissima, abbiamo Mughini, abbiamo De Bortoli, abbiamo il collegamento con la Fondazione Pupi, dove praticamente c'è tutta l'Inter. Andiamo a fare adesso una cosa io e Icardi che penso sarà piuttosto divertente. Penso che avremo Bovieri, spero che avremo Bonolis, Melissa ovviamente, insomma. Bobone Vieri. Ordine Liguori, grande spettacolo, dai. Ci sentiamo domani, Pierluigi. Ci sentiamo domani. Ci sentiamo in viaggio verso Udine. Quindi torture test per il telefonino. Andiamo a vincere, eccezionale. Ciao, GR. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Si ricomincia. Convocati. E Sebastian Vettel e tutti i tifosi della Rossa si preparano a festeggiare la quarta vittoria di Sebastian Vettel a Singapore. Sebastian Vettel, Sebastian Vettel, Sebastian Vettel vince per la terza volta nel corso di questa stagione. Sei un campione, grande Seb. Grazie ragazzi, grazie. Che giornata, che giornata. Che dire, che dire. Mi sentite? Forza Ferrari! Non è la mia Ferrari, questa è la Ferrari a partire dal presidente e di tutti quelli che ci lavorano, soprattutto dei ragazzi, sono stati fantastici, quindi sono contentissimo. Sebastian è un campione, lo ha dimostrato con un giro pazzesco ieri. Sul giro unico io ho visto solo Reutemann e Senna fare quelle cose lì e oggi con una gara fantastica. Ragazzi, oggi ho un sonno da morire. Sapete perché? Sapete di chi è la colpa? Di Leo Turrini, perché ieri sera ho fatto le ore piccole, per me sono piccolissime, per vedere Leo Turrini maramaldeggiare nel club di Sky con Fabio Caressa, Vialli, Boban, Mauro, Bergomi, c'era qualcun altro? No, tutti qui. Leo? Mi senti? Come andiamo? Perché evidentemente se eri ancora davanti al televisore a quell'ora dovevi essere, come dire, molto affaticato dopo un'intera giornata dedicata da te a Pardo, al calcio. Ma io vorrei dare subito le notizie del traffico, è possibile? Sì, perché allora, c'è un tizio che cammina sulla Salerno e gioca. Automobilisti, attenzione! Se siete sulla Fiera Formano ci sono delle code, ma non per colpa dell'Expo. C'è una Mercedes ferma. Ed è quella di Lewis Hamilton che non si muove più. E quindi dovete avere pazienza, perché noi speriamo, da bravi ferraristi italiani, che non possa essere rimossa fino a domenica prossima sera, dato che c'è il Gran Premio a Suzuka in Giappone. E qui, essendo italiani tutti un po' pazzi, ci siamo messi a delirare sulla possibilità che il nostro tedesco possa addirittura coronare il sogno mondiale. Meno 49 all'alba. Beh, allora, devo fare un discorso da appassionato, caro gente, che sei il mio maestro di vita, o devo fare un discorso realista? Dimmi no, un da, po' da appassionato, che... da appassionato. Allora, senti, 49 punti con 6 gare a disposizione non sono un ostacolo insormontabile per chi deve recuperare. Quello che dobbiamo capire è se quella Mercedes ferma, ripeto, sulla Pero Formano, la Mercedes del nero, no? Sia incappata semplicemente nella situazione episodica, o se l'evoluzione del motore di questi tedeschi abbia improvvisamente scoperto in se stessa una falla. Perché non dimentichiamo che già a Monza Rosberg aveva rotto, appunto, ieri sembra diventata una Mercedes un po' friabile come un grissino, hai capito? Allora, se la vediamo da appassionati, io devo dire al mio idolo Carlo Genta, perché trasmetta anche a Pardo questa sensazione, che potremmo avere un godimento autunnale infliggendo il rododendro non solo a Fernando Alonso ma anche a Niki Lauda e a tutti questi insopportabili argente, i personaggi di Stoccarda. Senti, Luca chiede chi ha vinto il rododendro di ieri. Ma io ieri l'ho dato a Niki Lauda, perché Lauda proprio prima di Monza aveva detto ma sì, questi pastasciuttari della Ferrari si lamentano sempre, chiedono interventi sulle regole, ma insomma, Vabbè, diciamo che ci stiamo prendendo qualche soddisfazione. Poi però voglio anche essere intellettualmente onesto. Io non credo che questa difficoltà di Mercedes possa essere permanente. Anzi, immagino che già qui a Suzuka, che è una grande classica della Formula 1, del Gran Premio del Giappone, per capirci, come la Parigi-Roubaix del ciclismo, Wimbledon nel tennis, ecco, non credo che arrivino a Suzuka ancora con questa falla, hai capito, nella loro power unit. Però mi fa pensare tu che io con grande sportività ti devo dire glielo auguro di non risolvere certo. Teneteveli tutti. No, però tu che tutto sai, tutto hai visto e tutto conosci, hanno schiacciato il terzo bottoncino, sono al terzo step di evoluzione, e sarà un caso oppure no che si siano manifestati in questo momento con tali problemi? Guarda, allora, io parlavo con amici della Ferrari prima che partissero per Singapore, no? E loro me l'avevano detto, non che il Gran Premio notturna sarebbe stato un trionfo per la rossa, ma me l'avevano detto che a Monza, nonostante la vettura di Hamilton, aveva avuto l'impressione che anche sulla vettura del nero fossero, per capirci, molto tirati, no? Molto al limite. Allora, poi siamo andati a Singapore e qui vorrei spendere un elogio per il nonno finlandese, per il mio idolo Kimi Raikkonen, perché sì, correva di notte, che è un'ora alla quale i nonni onestamente vanno a riposare, no? Io poi quando l'ho visto presentarsi sulla griglia di partenza con un paio di occhialoni da sole, no? Che eravamo nel pieno delle tenebre, ho detto, ma questo mondo non è partito, stavolta mette la retro, no? Ero veramente nel panico, una cosa che mi sconvolgeva. Invece esatto, ha fatto la sua garetta, no, da nonno. È stato sveglio, un bravo nonno. E questo, guarda, paradossalmente, se Mercedes continuasse ad avere delle difficoltà, potrebbe essere un'arma in più per la Ferrari, perché questo Raikkonen, che guida da Raikkonen, hai visto anche ieri che le Mercedes se le teneva dietro durante certo, la gara. Certo. Quindi è uno che, volendo, ha anche la possibilità di portare via dei punti al nero se Vettel scappa via. Chiaro. Comunque, tornando al discorso di prima, può darsi che in Mercedes magari abbiano forzato qualcosa avendo capito che la Ferrari non era più tanto lontana. Ma sono tedeschi, questi sono come la Merkel, dopo la soluzione la trovano, hai capito? Quindi io sì, ci spero, ma non mi faccio tantissimo. Adelante con giudizio, dai. Ma sì, è come lo scudetto dell'Inter di Mancini. È come lo scudetto dell'Inter di Mancini. Ah sì, ma ne possiamo parlare, così è divertente, l'Inter è a punteggio pieno. Adesso stai facendo lo scaramantico. Adesso stai facendo lo scaramantico. No, no, adesso fai lo scaramantico. Fare tu il Renzi della situazione e dirmi gufo, gufo. E poi lanciare l'hashtag la svolta buona, però vorrei ancora dare altre informazioni sul traffico. Sì. Fate molta attenzione se vi trovate sulla Salerno Reggio Calabria, non perché i lavori siano ivi in corso da 35 anni, ma perché sta procedendo in zona l'altra Mercedes, quella di Rosberg, e anche quella va un po' a singhiozzo, ogni tanto accelera, poi rallenta di brutto. E quindi dovete avere un attimo di pazienza se state percorrendo quel tratto di asfalto. Cercate di capire che è un momento difficile per le frecce d'argento, caro Genta, hai capito? Sì, un po' come la Roma di Garcia, no? Un po' come la Roma di Garcia, se fanno turnover, hanno fatto turnover, ci mettere anche tu, ma voglio, io sono di Sassuolo, ma giocavano contro una grande squadra. Una grandissima squadra, tu non mi ascolti mai, prima ho detto, forse in questo momento lo Sassuolo è la squadra che gioca meglio in Italia. Vogliamo dirlo? Abbiamo detto che faccio un cartello. La Roma, ma come, perde due punti contro il Sassuolo? Ma scusate, ma i neroverdi giocano a memoria un calcio molto pratico, non voglio dire spettacolare, molto efficace. E mi ricordano questa Ferrari di Arriva Bene, fatto bene a far sentire prima Arriva Bene, il nostro Airo Mauri, se ci avrete fatto caso, in 7 mesi è invecchiato 7 anni. Sì, è vero. Perché all'inizio della stagione aveva i capelli neri e insomma poche rughe. Sì, adesso sono rimasto io a sostenerlo che andiamo sempre a pranzo al Montale, ma mi invecchia volta per volta, mi si sta avvicendo sotto gli occhi questo uomo, si sta consumando, facciamo qualcosa. Sta facendo un grande lavoro perché ha ridato un'anima a questa scuderia, ma non c'è dubbio, ma questa è una delle cose più evidenti. Anche la cosa che abbiamo segnalato tutti ieri, bellissima, no? Che ha mandato un meccanico a prendere il premio riservato alla squadra uno che lavora in Ferrari da 35 anni, il mio carissimo amico Modesto Menabue, detto Moddi, quel signore con gli occhiali che avete visto tra Vettel e Raikkonen, no? È un gesto simbolico, ma che dà l'idea di che cosa sia il sentimento Ferrari, no? Sì, perché la grandezza della Ferrari, paradossalmente anche quando perde, meno male che ieri ha vinto, sta proprio nella sua unicità, in queste storie che si intrecciano con la storia, con la maiuscola. E qui, se vuoi, potrei partire, citare Tolstoi, Guerra e Pace, scomodare Dostoevsky, Delitto e Castigo, perché a me questa trasmissione di gente mi ispira. Cioè, ascolta. È una cosa che, guarda, te l'ho già detto una volta, cioè, io quando parlo con te per la felicità mi metterei tutto in nudo, come dice Benigni. A proposito, no? Di nudo e di cinematografia, a proposito di nudo e di cinematografia, c'è Sergio da Vignola, che conosci, che scrive Vignola, che se la Ferrari vince il mondiale io sono Rocco Siffredi, questo ha scritto. Beh, allora lui ha scelto, diciamo, un esempio aulico, molto raffinato, però se lasciamo perdere le misure di Rocco, i temi oggettivi, l'ho detto prima, mi tocca dargli ragione, cioè 49 punti di vantaggio per Hamilton, 6 gare dalla fine, una Mercedes che fino a Singapore era comunque la forza egemone del campionato. Comunque io mi sono già inguaiato, perché prima che iniziasse il mondiale, con Arriva Bene, che non era ancora diventato bianco di capelli e tutto rugoso, avevamo detto: se la Ferrari vince almeno 3 Gran Premi quest'anno, andiamo a piedi da Maranello a Sestola. Sì. Forse tu non sai dov'è, ma comunque no, lo so perfettamente, ma c'è chi invia un messaggio riconfermando quanto scritto il 27-7, quindi il 27 di luglio, invito a cena nel mio appartamento di Sestola, se arrivano a piedi arriva bene Turrini. Il problema è, posso dire questo, accetto l'invito, noi partiamo. Oh, io sono molto preoccupato per la tenuta fisica di Iron Mauri e non so, forse faremo l'autostop poi gli ultimi 20 chilometri che passa Montezemolo con la multipla, Presidente, che voi sapete che ormai siamo diventati protagonisti di una realtà parallela, perché abbiamo Marchionne che va al Gran Premio di Monza e Montezemolo che è costretto a fare il Gran Premio di Ponza, cioè a starsene al mare su una barca, mentre il sogno della sua vita è finito in altre mani. Che cosa ci è toccato vedere, amici sportivi? Quanto è cattiva la vita, Leo. Grazie, grazie a te, Carlo. Conservati così, che ci vogliamo sempre a fare la diretta del nostro Io ci sarò, ma io sarò lì a fare la diretta. Sei un gigante. Anche tu. Ciao Leo Torrini. Buon lavoro. Ciao. Allora, dov'è Giorgio De Luca? Sparito? Eccolo lì. Parliamo con Giuseppe da Vicenza, Gianfranco da Genova, poi facciamo sentire quelli che a nostro insindacabile giudizio, perché noi non sbagliamo mai, sono stati i 3 gol più belli della settimana. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ho 2 considerazioni da proporvi. Sì. Uno sull'Inter e uno sulla Roma. Sì. La Roma, secondo me, fa gli stessi errori degli altri anni. Si fa il turnover per niente, come ha sempre fatto. Sì. Ha avuto, è da 3 anni a questa parte che fa sempre le stesse cazzate. Uh-huh. E sull'Inter, secondo me, se si dà un tempo di un mese, circa un mese e mezzo, di assestamento della squadra, sarà una grande Inter. Anche se sono juventino di nascita. Mm-hmm. Io sono abbastanza d'accordo su tutte e 2 le cose. Ha sentito prima Corrado Enrico, ha detto: se Garcia la smette di giocherellare con la formazione, di fare questi giochi da bambini, la Roma è onestamente uno squadrone, forse ha l'organico più completo della Serie A. Sta cadendo negli stessi vizi, negli stessi difetti. Torno a dire che ieri, insomma, per una squadra che vuole vincere lo scudetto sono stati 2 punti buttati. Quanto all'Inter, sono d'accordo, perché ha una faccia, una fisionomia, non può che crescere di condizione, non può che migliorare teoricamente. Gianfranco da Genova, buongiorno. Buongiorno, io stavo attendendo da quando c'era il grandissimo Graziani e speravo in un suo anche commento, quindi spererei che magari sentendomi oppure anche Genta magari gli porrà questo problema, magari dopo Udine. Il problema è De Sciglio, questo problema che già da milanista mi angoscia, io ho il terrore quando c'è De Sciglio, e allora chiedo agli esperti, anche a lei, e magari anche dopo Udine, se sarà un po' migliorata la situazione. Punti di forza e punti di debolezza di questo giocatore che mi terrorizza, e mi chiedo quali sono gli elementi che portano a far credere così tanto in De Sciglio. Mihajlovic è stato molto duro dopo l'ultima partita nei commenti, ma questo ragazzo davvero anche come qualità tecniche non sa ogni volta che tira colpisce il signor Rossi in sesta fila. No, questo, non sa crossare, è di carattere. No, questo è un po' ingiusto. Allora, non dimentichiamo che De Sciglia è molto giovane, è un talento, sta seguendo una parabola che è stata comune a molti. A molti giovani vanno un po' in altalena, quindi è facile salire, poi quando sei giù è difficile risalire. La parabola di De Sciglio, al di là del fatto che è stato diverse volte infortunato, mi ricorda un po' quella di Santon. Era il bimbo di Mourinho, il predestinato, quello che giocava le partite importanti, che non aveva paura di nessuno, e poi ha fatto un lungo girovagare, adesso è tornato all'Inter, secondo me l'anno scorso è stato uno dei migliori, è stato confermato un po' a stento, e questo non ho capito perché, adesso gioca titolare e fa il suo. Io continuerei a fidarmi di De Sciglio, guardi, mi dia retta. Allora, rapidamente, i tre gol più belli di ieri in Serie A. Allora, adesso ve li trovo, i tre gol più belli in Serie A, non li trovo più. Qual è il primo? Higuain. La pressione di Amsic, il pallone per Higuain, Higuain parte il tiro, rete! Higuain, gran gol, il Napoli sblocca il risultato. Secondo posto, Salah. Batte Totti, Pelusa allontana, poi Salah al volo! Infine Carlos Bacca. Bacca che riesce a girare, rete! Rete! Che gol Bacca! Incredibile! Milan ancora in vantaggio 3-2. Giacomo Bagnasco dal Mondiale di Rugby, vorremmo urlare così anche per la nazionale italiana, ma mi pare che non sia il momento, che non sia, no, guarda, Carlo, che di nuovo sia l'anno. No. Pronto? Sì, dimmi. Il momento non è evidentemente, noi abbiamo una squadra che ha mostrato dei limiti. La cosa un po' curiosa e spiacevole è che si ovvia a certe difficoltà e poi se ne palesano delle altre. Non potevamo certo aspettarci che la mischia chiusa diventasse un nostro problema, è stato così per chi si è lamentato dell'arbitro, ma in realtà probabilmente era meglio partire con una prima linea diversa, come è stato dimostrato dall'ultima mezz'ora di gioco. Comunque sì, questi siamo, sapevamo benissimo che Francia e Irlanda erano favorite, che ci voleva un miracolo per andare avanti, ci possiamo ancora giocare un miracolo. Sentivo prima la telecronaca del gol di Bacca, questo incredibile, che è un aggettivo inflazionato, ecco, invece se dobbiamo parlare di miracoli, la vittoria del Giappone sul Sudafrica è stata proprio incredibile. Sì, quella ha fatto il giro del mondo. Insomma, il mondiale nel 2019 andrà in Giappone e c'è un motivo in più adesso per farlo. Ma sai andare. Cosa a me fa arrabbiare da morire? Che vedi queste realtà che stanno crescendo, ma su programmi precisi. Noi siamo immobili, come diceva, guarda, Turrini, inchiodati sulla Salerno-Reggio, sì, Calabria. Devo dirti che oltretutto l'Australia, il Giappone Sudafrica, ha un grande allenatore. Detto questo, è successa una cosa che potremmo avvicinare, ecco, diciamo che il doppio miracolo Pennetta-Vinci vale di più perché sono state in due a fare una cosa che nessuno pensava, però in questo caso ti basti che il Giappone partecipa dall'87 alla Coppa del Mondo, aveva vinto una partita sola nel 91, era dato 1-1000, e allora ti dico due battute, una mi permetto di dirla, è la mia, se Kennedy una volta ha detto io sono berlinese, volendo mettere insieme cose serie e meno serie, io vorrei essere giapponese. ma la più bella l'ha scritta Mark Palmer sul Sunday Times ieri, con un paradosso, dicendo i giapponesi non avevano diritto di vincere questa partita, però nessuno li aveva avvertiti. E quindi loro hanno fatto una cosa meravigliosa, come quell'ultima palla che si sono rifiutati di calciare in mezzo ai pali e sono andati fino alla fine, fino a cercare la meta, e l'hanno segnata battendo il Sudafrica. Quando vedrò una cosa di questo tipo con la maglia azzurra invece che con quella del Sollevante, vabbè, sarò un po' più felice. Ciao Giacomo, ci sentiamo presto. Molto bene, ciao. Ciao Giacomo Bagnasco, chiudiamo qui. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione. De Luca! A domani alle 2, ciao! Grazie, buon appetito!